Talk, Sputnik on Radio. Del Capo, Radio Metropolitana 94.7 96.250, siete su Munto con Chiara e Marta, e quindi diamo subito le coordinate, ovvero il nostro blog è muntalkradio.blogspot.com e invece la nostra email su Gmail è muntalkradio@gmail.com. Questa settimana parleremo del Meltdown Festival, un festival che si tiene a Londra ogni anno dal 1993. È un festival musicale che si tiene nel mese di giugno alla Royal Festival Hall, che è parte del South Bank Centre di Londra. È un po' un festival un po' particolare perché è curato ogni anno da una persona diversa. Quindi di solito è un musicista oppure un compositore, e l'unica eccezione di questa regola è stata John Peel, su cui abbiamo fatto anche una puntata di Moon Talk. È anche stato un po' l'anno di svolta. Esatto, sì. Tra i musicisti italiani, questo è il gossip di Moon Talk, l'unica ad avere finora partecipato al Meltdown è stata la cantautrice Cristina Donà nel 2001. C'era Robert Wyatt. Come curatore. Quindi 1993 è stato George Benjamin un po' ad aprire, insomma, questo ciclo di festival. George Benjamin è un compositore contemporaneo. Nel 93 quindi la line-up era un po' più centrata sulla musica classica, infatti ci furono come artisti cantanti come Christine Boats e Richard Stewart e percussionisti come James Wood e Robert Van Slice e anche la London Sinfonietta e la London Philharmonic Orchestra, quindi anche delle orchestre insomma importanti di Londra. Nel 94, quindi l'anno successivo, prende invece il potere, come si dice? No. È la direzione del festival. Sì. Louis Andriessen, che era un compositore invece, che è invece un compositore olandese e pianista. Nel 94 si inizia quindi a intravedere magari un lato un po' più sperimentale con Philip Glass, ma anche gli Icebreaker, il quartetto dei The Smith e poi anche un compositore come Steve Reich, che è un musicista e compositore statunitense che ha studiato filosofia alla Cornell University e poi musica. Ci ascoltiamo un pezzo. Sì, volevo dire che i suoi lavori prendono spunto anche dalla musica africana, infatti ha studiato anche in Ghana ed è considerato però uno dei padri del minimalismo e nel 2009 ha vinto il premio Pulitzer con il brano Double Sextet. Quindi andiamo a sentire Steve Reich con Music for a Large Ensemble. Thank you. Quindi questo era Steve Reich con musica per Large Ensemble. Steve Reich è stato, ha partecipato all'edizione di Louis Anderson del Meltdown Festival nel 1994. Passiamo all'anno successivo, quindi il 1995, con la direzione artistica di Elvis Costello. Elvis Costello che ha iniziato ad entrare nel mondo della musica nel 71 con dei gruppi punk rock, ma nella sua carriera ci sono anche collaborazioni con musicisti classici, tra cui il soprano Annie Sophie, e con anche versioni un po' più pop del classico come Burt Bacharach. L'edizione del 95 di Elvis Costello ha visto come partecipanti Bill Frisell, Steve Nave, sempre The London Sinfonetta, quindi sempre un gusto un classico, però poi anche Deborah Harry, che andiamo a sentire infatti con Liar Liar. Questa era Deborah Harry, presente nel 95 all'edizione di Elvis Costello. L'anno successivo invece è l'edizione di Magnus Lindberg, compositore finlandese, infatti sarà un po' l'edizione nordica del Meltdown Festival, con il debutto di Vartina e di compositori nordici e Leningrad Cowboys, che non so chi siano, e Tommy, che sono un collettivo sperimentale appunto di Lindberg, che insomma hanno fatto una rara esibizione al Meltdown. Invece passiamo quindi al 1997, dove alla direzione creativa c'è Laurie Anderson. È un anno un po' più rock, sì, meno sì, orchestrale. Sì. E infatti suonano DJ Scanner, Lou Reed ovviamente, e anche Arthur Lindsay, che ne abbiamo già parlato nella puntata sul Mad Club. Sì. Infatti con il suo primo gruppo, i DNA, facevano parte della scena, sì, no wave. Sì. Di Arthur Lindsay vi faccio sentire una canzone tratta da Noon Child, e la canzone si chiama Simply Are. I do love your lack of all expression, find it not at all distressing. Life was tailor-made for this refreshment, while life is rarely lacking dust, covered with details and fuss. You are one of those creatures who simply are. Lindsay con Simply Are, tratta dal disco Noon Child. Quindi, sempre, nelle sempre nell'edizione del 97 curata da Laurie Anderson, troviamo artisti come Philip Glass, Brian Eno, anche Peter Gabriel, tutti artisti che avevano collaborato proprio con Laurie, con Anderson, Laurie Anderson a New York. Sì. E abbiamo anche Sakamoto, che è un musicista, compositore e attore giapponese, tra i primi a contaminare musica etnica orientale con sonorità elettroniche occidentali. È stato membro prima dei Yellow Magic Orchestra, per poi seguire successivamente una carriera da solista e diventare anche compositore di colonne sonore cinematografiche. E, insomma, è stato uno che ha mischiato un po' tutti i generi tra dal pop alla dance all'elettronica, ambient, bossa nova, world, classica, quello che vuoi. E quindi andiamo a sentire il suo pezzo famosissimo, forse uno dei più famosi, del 1980, Riot in Lagos. Quindi questo era Sakamoto con Riot in Lagos, uno dei pezzi più famosi, forse, del compositore giapponese. Abbiamo detto quest'anno quando si terrà il festival? Dall'11 al 21 giugno, quindi sbrigatevi a prendere i biglietti. Chi sarà il curatore? Quest'anno... Aspetta. no! Quest'anno è Richard Thompson, che è un chitarrista. Ok. Abbiamo parlato del 1997, anno curato da Laurie Anderson, e passiamo al 1998, anno in cui il direttore creativo è John Peel. Come dicevamo prima, questo è sicuramente l'anno di svolta. Il Meltdown diventa a tutti gli effetti un festival molto più elettrico, molto più rock, più pop rispetto a come era quando è nato. Mm-hmm. John Peel invita infatti Corner Shop, Sonic Youth, Spiritual Eyes, Delgados, Jesus and Mary Chain, Damon Albarn, tutti gruppi che sicuramente si discostavano rispetto alle selezioni degli anni precedenti. Sì, che erano un po' più orchestrali. Cioè. Sì. Molto molto di più. E io vi faccio sentire una canzone dei Gorky's The Gothic Monkey, gruppo scoperto, vabbè, non proprio scoperto, però i primi passaggi nella BBC chiaramente sono stati proprio nel programma di John Peel, E ci ascoltiamo, chiaramente non mi ricordo la canzone. Farewell Eyes. Esatto, tratta dal disco Spanish Dance Troupe. Erano Gorky's The Gothic Monkey e era appunto l'anno seguito da John Peel, e passiamo all'anno successivo seguito da Nick Cave. Nick Cave invita quell'anno Bonnie Prince Billy, Nina Simone, Dirty Tree, Turo Cocorot. Parlo troppo piano? Sì. Ah, ok. Adesso va bene? Sì. Ok. Di quest'anno vorrei farvi sentire un pezzo del gruppo Faust, una band, vabbè, sono famosi, insomma, band tedesca, si è formata nel 71, fanno dell'art rock e spesso paragonati ai Ken, ai Kraftwerk, e vi faccio sentire una canzone che si chiama Meadow Mill, appunto sentiamo i Faust. Thank you. meal and the guests I get it and the gate I get it and the game I get it. A wonderful wooden reason to stand in line, keep in line. Dinah, crash the sound, you lose your hand to understand the accident is red. You are free for, and the money you look up, and the madam you look up, and the middle you look up. A wonderful wooden reason to stand in line, keep in line. Line up, crash the sound, you lose your hand to understand the accident is red. Siamo costretti a interrompere questa canzone dei Faust, no, perché era interessante, dura però, un po' troppo. Però dura, sì, 8 minuti. Questa canzone è tratta dal primo disco dei Faust, che è del 1971, e è stato purtroppo un fiasco commerciale. Ma invece... Perché fai questa faccia? No, no. Comunque invece ricevette le lodi di tutta la critica. Piacque. Quindi, molto. Questo era l'anno di John Peel. No, questo di, era, scusami, si capisce secondo, sì, me, Nick Cave. Esattamente, Nick Cave. L'anno successivo invece è l'anno di Scott Walker, di cui vi abbiamo già parlato su Muinto. Comunque Scott Walker era, beh, faceva parte prima dei Walker Brothers e poi ha avuto una carriera solista molto intensa, diciamo. Il suo ultimo disco, che vi consigliamo, è uscito qualche anno fa, nel 2000, quindi ha fatto il curatore di questo festival e ha invitato persone come Jim O'Rourke, Mark Anthony Turedge e musicisti jazz come Evan Parker, sì, e Cicala Mufta, penso che si pronunci così, e anche gruppi come Rich Alston Dance Company. Sì, io di questa come si dice, di quest'anno, sì, vi faccio sentire una canzone di Smog, ovvero un progetto dietro il quale si cela Bill Callan. E in particolare vi voglio far sentire una canzone tratta da Knock Knock, che era uscita un anno prima, ovvero il 1999. E prima ci ascoltiamo la canzone e poi ne parliamo un pochino. Sì, Smog Teenage Spaceship. Sì. Flying around the houses at night, flying alone, a teenage spaceship was a teenage facial. Landing at night, I was beautiful with all my life. So large on the horizon, so large. People thought my windows were stars. So large on the horizon, people thought my windows were stars. A teenage spaceship, a teenage spaceship. Swore I'd never lay like a log, bark like a dog. I was a teenage small. Questo era Smog con la canzone Teenage Spaceship, e brano contenuto nel suo settimo disco Knock Knock, che è uscito appunto, come dicevo prima, nel 1999. E stiamo parlando di Meltdown Festival, anno... Chiara, te lo ricordi? Che anno stiamo... 2000? No, 2000. Esattamente, sì, 2000, Scott Walker. Passiamo all'anno successivo, che è l'anno curato da Robert Wyatt. È stato appunto Robert Wyatt il direttore artistico dell'edizione del 2000, che si è tenuta sempre alla Royal Festival Hall dal 9 al 23 giugno. E quest'anno, in quell'anno, vediamo quanti gli artisti che ha invitato. Vabbè, c'è Elvis Costello che duetta con Brett Anderson degli Suede. Poi c'è stato Sparkle Horse, Oi Vavoi e appunto, come dicevamo prima, Cristina Donà, unica artista italiana ad essere stata invitata a questo festival. Allora, prima vi faccio sentire una canzone di Robert Wyatt e poi una canzone delle Raincoats, gruppo che appunto è stato ospitato proprio in quell'anno al Meltdown Festival. When he told the beast of Berlin that they'd never rest contented till they had driven him from the land, so he called the Yanks and English and proceeded to extinguish the Führer and his vermin. This is how it all began. Now the devil, he was reading in a good book one day how the Lord created Adam to walk the righteous way, and it made the devil jealous. He turned green up to his horns, and he swore by things unholy that he'd make one of his own. So he packed two suitcases full of grief and misery, And he caught the midnight special going down to Germany. Then he mixed his lies and hatred with fire and brimstone. Then the devil sat upon it, that's how Adolf was born. Now Adolf got the notion that he was the master race, and he swore he'd bring new order and put mankind in its place. So he set his scheme in motion and was winning everywhere, until he upped and got the notion for to kick that Russian bear. Stalin wasn't stalling when he told the Peace of Berlin that they'd never rest contented till they had driven him from the land. So he called the Yanks and English and proceeded to extinguish the Fuhrer and his vermin. This is how it all began. Yes, he kicked that noble Russian, but it wasn't very long before Adolf got suspicious that he had done something wrong. 'Cause that bear grabbed the Fuhrer and gave him an awful fight. 17 months he scrapped the Fuhrer, tooth and claw, day and night. Then that bear smacked the Fuhrer with a mighty armored paw, and Adolf broke all records running backwards to Krakow. Then Goebbels sent a message to the people everywhere that if they couldn't hit the Fuhrer, God done hit that Russian bear. Stalin wasn't stalling when he told the Peace of Berlin that they'd never rest contented till they had driven him from the land. So he called the Yanks and English and proceeded to extinguish the Fuhrer and his vermin. This is how it all began. Then this bear called on his buddy, the noble fighting Yank, and they set the Fuhrer running with their ships and planes and tanks. Now the Fuhrer's having nightmares, 'cause the Fuhrer knows darn well that the devil's done wrote welcome on his residence in Stalin wasn't stalling when he told the Peace of Berlin that they'd never rest contented till they had driven him from the land. So he called the Yanks and English and proceeded to extinguish the Fuhrer and his vermin. This is how it all began. Yeah. appunto nel 2002. Ti stavo dicendo che il 2002 era l'anno invece di David Bowie ed incredibilmente non abbiamo scelto delle canzoni da lì. Però l'ho fatto pensando che l'avresti fatto tu, sai. Però aspetta un secondo che dico che canzone ho messo prima, poi parliamo di David Bowie. Allora, in ordine vi ho fatto sentire una canzone di Robert Wyatt, ovvero Stalin Wasn't Stalin, e una canzone invece delle Raincoats, Fairy Tale in the Supermarket, contenuta nel primo loro disco. Appunto, quindi ora possiamo parlare di David Bowie. Sì, ma io non ho nulla. Non abbiamo di David niente, no, ma quell'anno vediamo cosa c'è stato. Io volevo mettere un pezzo di Badly Drawn Boy, però poi mi è passata momentaneamente la voglia. E non ho messo. Vabbè, poi ci sono stati Yes, che erano al debutto. 6x7, Supergrass, Suede, Dandy Warhols. Dandy Warhols. Sì, addirittura Dandy Warhols. Mamma mia. Tra l'altro, quell'anno lì, leggevo appunto nella storia del Meltdown, la serata finale fu proprio il concerto di David Bowie con apertura ai Dandy Warhols. Ma no, dai, guarda che secondo me il primo disco non era brutto. Siamo in disaccordo. Siamo in disaccordo. 2003 invece Lee Scratch Perry, leggendaria figura reggae e dub, produttore tra l'altro anche di musicisti e artisti come The Clash e Bob Marley and the Wailers. Al Meltdown porta Public Enemy, Asian Dub Foundation, Fun Loving Criminals, Macy Gray e anche Tricky. 2005 Patti Smith, che porta invece Mark Almond, the Finn Brothers, Anthony and the Johnson, The Red Hot Chili Peppers, William Blake, Television, Yoko Ono, Sinead O'Connor. 2005, boh. Molto bello. 2006 invece... Salta perché esatto. Ci sono dei lavori di ristrutturazione alla Royal Festival Hall. Ero già in panico. Non ho il 2006. 2007, Jarvis Cocker, lo ricordiamo, faceva parte dei Pulp e poi ha iniziato con una carriera solista. È una figura importantissima, diciamo, nella scena inglese. E nel 2007 l'abbiamo ricordato anche la scorsa puntata mentre parlavamo di Michael Jackson. Ah, è vero, sì, perché quando Michael Jackson andò alla ai Brit Awards, insomma, Jarvis Cocker lo prese un po' in giro. Sì. 2007, quindi al Meltdown Festival, Jarvis Cocker porta Iggy and the Stooges, Motorhead, Jesus and Mary Chain, ma anche Grace Jones, Pete Doherty. Ancora i Corner Shop, leggo. Sì, perché Pete Doherty? Ma no, soprattutto i Corner Shop. Nick Cave e poi Shane McGowan, che non conosco. E invece i Divo, che vi vorrei fare ascoltare con Whip It. Whip it good. give the fast a slip. Step on a grid. Break your mama's back. When a problem comes along, you must whip it. Before the cream sets out too long, you must whip it. When something's going wrong, you must whip it. Now whip it into shape. Shape it up. Get straight. Go forward. Move ahead. Try to detect it. It's not too late to whip it into shape. Shape it up. Get straight. Go forward. Move ahead. Try to detect it. It's not too late to whip it. Whip it good. E quindi questi erano i Divo con Whip It, presenti al Meltdown Festival del 2007 curato da Jarvis Cocker. Ci siamo dimenticate di menzionare il 2004 curato da Morrissey. Vai. È stato, ma io volevo assolutamente mettere qualche pezzo infatti... di qualche gruppo, invece è stato molto molto deludente. Ha invitato Ordinary Boys, che erano un gruppetto indie uscito in quegli anni, mi ricordo perché comprai il disco, però sono finiti nel dimenticatoio quasi subito. Poi invitò gli Sparks, i Libertines, insomma Robots. Ma sì, dai. Sì. Quindi invece parliamo del 2008 Massive Attack. Ci sono cose interessanti, no? Se mi ricordo bene, Massive Attack, allora, invitarono i Gong, Fleet Foxes, Elbow, Gracie Jones, Cool Kids, sì, Flying Lotus, li abbiamo messi nella puntata della Warp? Sì, No, forse non li abbiamo messi. Cool Kids mi sembra di sì. Però Flying, Flying Lotus no, sì, l'ho messo, ma non mi ricordo. Però era un suo remix di qualcosa. Ok, vero. Poi in quell'anno ci furono anche Gang of Four, Tam Tam Club, insomma, delle bello, cose molto interessanti, sì. Sì, 2008. 2009 Ornette Coleman, che anche quello mi sembra, era l'anno scorso, mi ricordo che ci volevo andare, ma non... C'erano i Roots, Yoko Ono con il figlio Sean Lennon, Cornelius, Io la tengo, Moby, Patti Smith, sì, sì, Robert Wyatt, molto bello, sì. E arriviamo a quest'anno con la direzione artistica di Richard Thompson, cantautore e chitarrista inglese, e quest'anno appunto porterà il festival alla... Quante edizioni sono? Non lo so, vabbè, è iniziato nel 1992, 93. Senza uno, quindi... Vabbè dai, non lo diciamo. Ok, quindi Richard Thompson, nato a Londra nel 49, membro fondatore della Airport Convention, ha pubblicato degli album considerati dei classici del folk rock inglese, insieme all'ex moglie Linda, che tra l'altro tuttora... segue una carriera da solista. Andiamo ad ascoltare un pezzo che ho trovato, cioè che secondo me è molto interessante. Penso che quest'anno la cosa interessante un po' del Meltdown è che Richard Thompson ha cercato un po' cose in giro per il mondo. Infatti ci saranno i Cominas, che fanno parte di questo movimento chiamato Taqwa Core Movement, che è una scena punk islamica. Islamici pensano che la musica non faccia parte dei dettami, insomma, della loro religione. Invece questo movimento va un po' contro questo pregiudizio. C'è tra l'altro un film molto interessante che è uscito poco tempo fa su questo movimento. Però noi andiamo a sentire invece un gruppo Che non c'entra assolutamente niente però che sarà presente quest'anno, il gruppo più famoso è della Malaysia, che ha venduto più di 3 milioni e mezzo di copie del loro album di debutto. Niente male. Hanno collaborato tra l'altro con Yusuf Islam, sai chi è? No. Dai. No. Cat Stevens. No, è vero che ha cambiato nome. Ha cambiato nome. È vero. Si chiamano i Raihan. Il nome della canzone non ci riuscirò mai a dirlo. Comunque ricordiamo Meltdown Festival dal 11 al 21 giugno. Sì. Londra. State ascoltando anche Moon Talk con Chiara e Marta. E ci sentiamo mercoledì prossimo. Ci sentiamo mercoledì prossimo. Ciao.